come Remida, forse il mondo è al contrario. Nuoto con questi squali, la mia casa è un acquario. Vendessi i miei fallimenti, ora sarei milionario. È tutta la vita che corro, non sono mai stato in orario. Vorrei dirti che cambierò, che cambierò, che cambierò. Ho perso il telecomando, in telecer rete 4. Anche stasera sono KO, sono KO, sono KO. Ti ho dato pure un anello, ma pensavi stessi scherzando. Tutto a posto come no, tutto ok sì come no. Non ho niente che non va, sì che non va sì come no. Tutto bene come no, tutti insieme come no. Non c'è niente che non va, sì che non va sì come no. Sì come no, sì come no, sì come no. Sapevo che la fortuna è come una ruota che gira. Allora la sfiga è più tipo un bullo e mi sa che mi ha preso di mira. Potessi tornare indietro, farei tutto come prima. Pure buttarmi di faccia e poi spaccarmi un dente sul fondo di quella piscina. E vorrei dirti che cambierò, che cambierò, che cambierò. Ho messo tutte le marce e continuo ad andare al contrario. E anche stasera non tornerò, non tornerò, non tornerò. Andate tutti a fanculo. Inchino, applausi, sipario. Tutto a posto come no, tutto ok sì come no. Non ho niente che non va, sì che non va sì come no. Tutto bene come no, tutti insieme come no. Non c'è niente che non va, sì che non va sì come no. Sì come no, sì come no, sì come no. Tutti insieme come no. Sì come no, sì come no, sì come no. Non puoi fermare quel treno, se ti stendi sopra un binario. Non manderai indietro il tempo, se giri in senso antiorario. Non rivedrai la mia faccia, non sarà più necessario. E poi tutti a casa, anch'io, applausi, sipario. Tutto a posto come no, tutto ok sì come no. Non ho niente che non va, sì che non va sì come no. Tutto bene come no, tutti insieme come no. Non c'è niente che non va, sì che non va sì come no. Sì come no, sì come no, sì come no. Tutti insieme come no. Sì come no, sì come no, sì come no.